Extinction Rebellion, come abbiamo già detto in passato, nasce proprio per tirarsi le fila di quello che sono state le lotte, le manifestazioni, gli articoli degli scienziati, gli avvertimenti che non hanno sortito effetti durante decenni, e quindi nasce un po' come l'ultima spiaggia, se possiamo dirlo in questo senso, perché la disobbedienza civile a questo punto diventa l'unica possibilità per che ci rimane, per avere speranza di salvare il pianeta dalla catastrofe, sia climatica sia ecologica. Nasce a Londra, nasce in Inghilterra e si diffonde in tutto il pianeta. Adesso ci sono gruppi attivi in quasi 50 paesi, di cui 33 dei quali hanno attivato 80 città e in cui hanno attivato queste azioni di disobbedienza civile dal 15 aprile in poi. Ovviamente il più forte che sta succedendo a Londra, dove sono in costruzione e in attivazione da più tempo, e sono stati parecchie migliaia di persone che da lunedì scorso bloccano 5 punti nevralgici della città, proprio più emblematici del centro della city. Quindi appunto dicevi, Londra chiaramente simbolicamente come partecipazione quella più ampia, però si sta svolgendo in contemporanea in molte altre città in tutto il mondo. Sì, in 80 città, in 33 paesi ci sono azioni in questi giorni, da New York, Parigi, Bruxelles, passando per tutte le città anche fuori Europa, come in Australia, stesso Brasile, India, azioni di più o meno grande portata, però azioni in tutte queste città. Quindi in alcuni casi, come d'altronde qui da noi a Milano, Roma e Torino, sono azioni di piccola portata, di chi comincia per far conoscere il movimento, per fare più sensibilizzazione e far conoscere il movimento, che è un preludio a quello che potrebbe poi diventare la vera disobbedienza civile di massa a cui il movimento aspira. Mentre in città dove c'è più consolidata l'azione, soprattutto nel Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti e in Australia, sono azioni già più incisive, come occupazioni di strade o di ponti e via dicendo. Volevo chiederti una cosa rispetto anche alla narrazione che ne è stata fatta in questi giorni, soprattutto con riferimento a Londra. Molti giornali parlavano di manifestazioni di una classe medio-alta, diciamo. Che cosa pensi di questa classificazione? In qualche modo. Io, da quello che ho visto e dalle persone con cui ho parlato a Londra, in realtà vedo con Extinction Rebellion una novità nel panorama dell'attivismo, in cui insieme si trovano, a maggior ragione a Londra, dove ci sono molte più persone, si trovano persone di tutte le origini sociali e etniche, di attivisti che sono sempre stati attivisti e di persone che di attivismo non hanno mai fatto. Quindi noto che ci sia una differenza che poi si ritrova nel nostro piccolo anche in Italia, dove vediamo persone che vengono dall'attivismo sociale di base, dall'occupazione di centri sociali, fino a un medico 58enne, per dire, quindi una persona di tutt'altro percorso socio-economico e culturale. Questa catastrofe che riesce a convincere, questo rischio di estinzione che riesce a convincere tanti, queste problematiche ambientali molto serie, basate su tematiche scientifiche ormai consolidate, riescono a convincere e a preoccupare persone di ogni origine, per cui non mi riconosco in questa sintesi che ne è stata data rispetto al movimento anche a Londra. Anche perché poi diciamo, se può essere vero che per prendere una consapevolezza, almeno dal punto di vista scientifico, servono anni di formazione, ecco, dall'altra parte poi è altrettanto vero che generalmente a pagare le conseguenze più forti ad oggi del cambiamento climatico in realtà sono le persone più povere nel mondo. Sono le persone più povere del mondo, sono le nazioni più povere, ci sono diverse correnti all'interno di Extinction Rebellion e ci sono delle situazioni in certi paesi come in India, in Ghana e altri, dove si trovano insieme sia persone che magari hanno studiato e possono portare certi messaggi, certa consapevolezza, che persone della base anche rurale, anche contadina, che sperimentano sulla propria pelle quello che sta succedendo. Un'ultima domanda sul modo in cui sono state proprio organizzate queste mobilitazioni. Nel caso per esempio di Londra si è visto proprio come appunto è stata organizzata una disobbedienza civile che comprende anche la possibilità che gli attivisti e le attiviste siano arrestati in una catena di persone che continuano a darsi il cambio. Quindi mi chiedevo se sai un po' come sta andando in questo senso e anche come è venuta questa organizzazione. L'organizzazione avviene con grande investimento di formazione, di studi da tutti i punti di vista, anche legale, anche di come proprio comportarsi, con un'adesione totale e incondizionata alla non violenza, e quindi la preparazione a comportarsi sempre in un certo determinato modo e anche sapere a cosa si va incontro. L'invito è proprio quello di manifestare in questo modo, non solo con una semplice sfilata, una marcia di protesta ma canalizzata, perché quello che è stato fatto finora, degno di lode, necessario e utile, non è bastato. Quindi la disobbedienza civile effettivamente richiede anche il fatto di essere pronti a pagare di persona, a prendere la responsabilità personalmente e metterci la faccia e rischiare anche eventualmente l'arresto, come stanno facendo in tantissimi, sono più di 300 ormai, quasi andiamo verso i 400 le persone che sono state arrestate a Londra, dove si parla di molte migliaia di persone che hanno manifestato, che sono intervenuti, ma in posti dove c'è stata una presenza meno massiccia si arriva comunque in termini percentuali a arresti notevoli. Penso a tutti gli attivisti che sono intervenuti a bloccare il ponte di Brooklyn, erano una 60, sono stati arrestati tutti. Non ci si ferma davanti alla situazione, in quanto è molto grave, e quindi si vuole far capire anche con questo essere pronti ad avere questi risultati, si vuole far capire quanto la situazione sia seria.